Ricercatori di Baltimora hanno studiato un antico rimedio tradizionale cinese, il Lei Gong Teng, oppure erba del tuono, che in Cina è stato usato per secoli per curare molte malattie, e hanno scoperto che contiene un principio attivo che blocca il controllo di certi geni prodotti dalle cellule. Agli estratti di questa pianta sono stati attribuiti poteri antinfiammatori, di immunosoppressione, anticoncezionali e perfino la capacità di combattere i tumori. Il principio attivo si chiama triptolide e dal 72 si sa che è in grado di bloccare la crescita cellulare, però non si conoscevano i meccanismi. Adesso questi ricercatori della Johns Hopkins University di Baltimora ne hanno studiato gli effetti su diverse proteine coinvolte nella regolazione dell'espressione dei geni, misurando la produzione di DNA e di RNA, un parente del DNA che serve a formare le proteine dentro le cellule. In particolare hanno scoperto che il triptolide blocca l'attività di un'enzima coinvolta nella sintesi di questo RNA, appunto. Questo spiega l'attività antinfiammatoria e probabilmente anche l'attività antitumorale. Adesso la speranza dei ricercatori è di tramutare queste conoscenze in nuove terapie per il cancro.